24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. L'Italia dovrebbe essere polverizzata. L'indipendenza. Cannonate. No, ma che cannonate. Se tutti i comuni, tutte le regioni fossero indipendenti, sarebbero tutti più contenti, mi creda, guardi. Parola di Giancarlo Orini, uno di quelli che è stato preso ieri in questo, come definirlo, in Veneto. Ho letto un po' i giornali, il tentativo di colpo di Stato d'osteria, i rivoluzionari dello spritz, i rivoluzionari veri e propri, qualcuno li definisce così, questa roba del Veneto, ma non lo so, cioè, vabbè, ricordate, no, l'assalto al campanile di San Marco, no? E adesso questo Giancarlo Orini, avete sentito, l'Italia andrebbe polverizzata, col giornalista che cercava cannonate a cannonate, ma no, dai, ospite, ma no, dai, su. Eccoci qua, eccoci qua. Alle 6:33 minuti ci sono, Rischiamo di non farcela oggi, quando poi non senti la sveglia, si comincia così, c'è Peter Bescapè che mi ha svegliato. Peter l'alpino che mi ha svegliato. Vabbè, saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto Peter Bescapè e quel che resta di me, apre il Parlamento. Apriamolo anche oggi, dai, su. C'è Nicole. Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, beh, vedi, adesso già sento un attimino più rilassato, più sereno. Voglio salutare il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella, ben ritrovato, eccoci. Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Buongiorno Maurizio, saluto anche Francesco Nicodemo, responsabile comunicazione del PD, ben ritrovato Francesco, eccoci qua. Eccoci. Ciao, buongiorno a te e a tutti. C'era un bello spritz a fianco? No, sinceramente ho quest'ora legale, stamattina pure è stata dura. Vabbè, ma insomma, sono i rivoluzionari dello spritz, i rivoluzionari dell'osteria, era per brindare a questa cosa. Ma davvero, ma tu ci credi? Ci credi, nel senso, ti sembra una roba seria? Sinceramente, ma quella cosa che stavano costruendo sembrava un po' il carro armato della Lego, Della Lego, non però, della Lega, della però, Lego. Però, sì. però poi bisogna prendere seriamente queste cose. Sì. Cioè, quindi c'è un lato, come dire, mettiamolo anche folcloristico, tutto ciò. Sì. Però poi evidentemente la magistratura ha trovato gli elementi di pericolo pubblico ed è intervenuta. Dopodiché su certe cose come noi possiamo ridere, No, ma per carità, allora il tema del secessionismo è un tema molto serio, tanto che oggi io qua la copertina di Panorama e con questi qua, vedi che c'era un complotto con i servizi segreti. Tu Maurizio, voi lo sapevate già tutto, avete fatto la copertina secessione. Purtroppo sul Veneto. No, tant'è vero che dentro il giornale non c'è ovviamente nulla, avete chiuso martedì ma è chiaro. Non c'è nulla né sul tanco né sui sugli arresti. Però giustamente avete parlato di questa cosa, e questo è un tema molto serio, un tema... Facciamo il nostro lavoro, per fortuna ci sentiamo ogni tanto. No, è che il Veneto, sono due cose diverse. Gli arresti mi lasciano filo perplessi. L'unica cosa che mi trattiene da negativi è la fiducia della bresciana. Fabio Salamone, il procuratore, è un uomo intelligente. Se certe cose sono arrivate a un certo punto, evidentemente i motivi ce ne saranno. Io ti dirò, ho letto come tutti, immagino voi, un po' di intercettazioni. Le cronache, le intercettazioni. Francamente, cioè, ci sono delle discussioni tipo: vabbè, ma se va male andiamo a mangiare il salame, ma no, sì. Qua ci vuole la dinamite. Sembrano tanto le fanfaronate di osteria, di osteria, o tra amici, o di chiacchiere al bar. Insomma, francamente, giustamente bisogna capire se trattarle così. Perché Flavio Tosi, intervistato dal Fatto, dice: ma se mi intercettassero quando io vado al bar a sparare cazzate, mi metterebbero in carcere, no? Tutti i giorni. Certo. Però, che vuol dire? Cioè, per questo è concesso tutto? Questa è l'altra domanda. Ma cose più importanti che dovranno passare a verifica sono quelle che riguardano i rapporti con gli albanesi, la raccolta delle armi, se effettivamente ci sono o no. Quelle sono le parti più pericolose e più impegnative anche dal punto di vista giudiziario. Il resto, francamente, sembrano veramente fanfaronate, sì. e chiacchiere in libertà. Chiacchiere quanto al Veneto, a cui, diciamo, come hai detto giustamente la copertina intitolando la secessione, Lombardi e Veneti hanno ragione o sono pazzi, questo è un altro discorso, perché il Veneto e anche la Lombardia, dove il governatore Maroni sta organizzando un referendum che sta passando sotto silenzio, ma in realtà rischia di portare qualche risultato importante e impegnativo se passasse in consiglio regionale. È un referendum diverso da quello del Veneto di qualche giorno fa, che era su online. E che vuole in questo referendum? Maroni vuole proporre, attraverso questo referendum, che prima ovviamente, ripeto, deve essere approvato in consiglio regionale e poi dovrebbe passare tra i cittadini, vuole proporre un passaggio istituzionale fortissimo, e cioè trasformare la regione Lombardia in regione a statuto speciale. Utilizzando... Ma no, ma ne abbiamo già sì. 3 o 4, 5, le vogliamo cancellare. Ne abbiamo 5 per quello. Ma lui dice, ed è un bel paradosso per un lombardo, dice facciamo della regione Lombardia una regione identica alla regione con lo stesso identico statuto della regione Sicilia. Sicilia. Ma come? Sembra una provocazione, si dice. Una provocazione, le regioni a statuto speciale sono quelle che la gente vuole cancellare, che sprecano. Però i risultati in Lombardia sarebbero impegnativi. Chiaro. I 190-200 miliardi che la Lombardia produce in tasse dirette e indirette, a quel punto avrebbero il diritto di rimanere qui. È chiaro. Sarebbe una mossa normale. Non ci sarebbero più i prefetti, non ci sarebbero più gli enti locali, sarebbero subordinati al controllo della regione, avrebbe una sua alta corte costituzionale che vigilerebbe sulla applicazione delle leggi italiane rispetto a quella della Lombardia. Ma è chiaro che sarebbero tante cose, tante novità. Ma rimanendo sulla questione della secessione, questa arriva, Nicodemo, ultimo tanco a Venezia. Vabbè, tu che ti occupi di comunicazione, dovrebbe essere questa. Però la sottodomanda più seria è questa, caro Nicodemo, ma non preoccupa, cioè tutti, nel senso, a Renzi, al governo, cioè cosa state facendo per far fronte a questo disagio che c'è molto sotto traccia di molti sindaci che dicono ma lì in Veneto, se quando tu produci tutto e le tasse finiscono tutte a Roma e vedi che tutto il frutto del tuo lavoro se ne va evaporato, allora la gente si incazza un po', poi ci saranno quelli da operetta, quelli da osteria, quelli i rivoluzionari, però in realtà il disagio è forte di varie parti del nord Italia soprattutto, Sì, questo non c'è dubbio. Guarda, ovviamente dal mio accento si sente che sono molto nordico, quindi chiaro. Provo a dare una lettura, diciamo, da meridionale del fenomeno. Io sono stato nel Veneto i giorni in cui c'è stato il referendum, per insomma, una serie di giri tra Belluno, Padova, passavano il Grappa, eccetera eccetera. Io ho parlato con tantissime persone quei giorni, cioè questa cosa del referendum mi è stata raccontata un po' come se fosse una sorta di cosa molto molto poco seria, e tra tutte le persone che con cui ho parlato nessuno davvero pensa che il Veneto debba essere indipendente. C'è un tema invece che secondo me riguarda complessivamente come abbiamo anche interpretato il federalismo in questi anni e come in realtà è fallito questo modello, che era anche, diciamo, un modello della Lega, e come anzi forse bisogna ripensare, come stiamo provando a ripensare come PD e come governo, il tema del titolo quinto e come le regioni abbiano fallito non tanto perché non abbiano avuto autonomia di fare le cose, perché se tu crei delle strutture che devono legiferare e quelle invece diventano solo degli ulteriori centri di spesa, tu non hai fatto altro che appesantire la struttura dello Stato. Cancelliamo pure quelle, cioè già si fa fatica con le province. Cioè. So che è una battaglia storica, le province ce l'abbiamo quasi fatta. Invece bisogna ripensare il ruolo delle regioni, e secondo me bisogna rafforzare il ruolo dei municipi e dei sindaci, che sono da sempre l'ente, l'istituzione che il cittadino sente. Beh, insomma, i sindaci quelli adesso faranno parte anche del nuovo Senato, quindi insomma gongoleranno. Sentiamo Salvini, la Lega, la Lega addirittura Bossi fa un'intervista a Repubblica, Umberto, il senatur, e dice: hanno sbagliato, la magistratura ha sbagliato totalmente. Salvini dice a Libero: pagheremo gli avvocati a queste persone in carcere. Sentitelo. Lo Stato italiano insegue i criminali veri, se qualcuno sbaglia e dei bislacche, per carità di Dio, si persegua, ma io so di gente che è stata svegliata alle 5 di questa mattina con 10 carabinieri in casa che cercavano fucili che evidentemente non esistevano. Le idee non si processano, l'indipendenza non si processa. L'indipendenza non si processa. No, come vabbè. Arriverà il 26 maggio, poi dopo il 26 maggio in campagna elettorale, Maurizio, in campagna elettorale. Però, perché la Lega è data in forte crescita. Sì, è vero. E voglio dire. Ma sai perché? Per la cosa sulle prostituzioni. Dai. Per tutto, per i loro referendum di quel tipo lì, sicuramente il vento anti-euro che arriva anche dalla Francia sicuramente contribuisce, certo. Forse anche questo, vuol dire, non è escluso che da questo tipo di attività giudiziaria possa anche arrivare un minimo di controproducente favore nei confronti dei secessionisti, per carità, cose sulle quali la magistratura non può certo basare le sue azioni, perché non può pensare a quello, ovviamente non deve essere neanche per errore considerato. Però vuol dire, come diceva Bakunin. Che di rivoluzione si intendeva, la rivoluzione è più istinto che era che parola o che ragione. Hai capito, Nicodemo? Qua ti sforniamo brioche e Bakunin alle 6.43. Maurizio Tortorella è così. Cioè, si sveglia al mattino, legge una massima di Bakunin, poi passa. Lega, posso dire una cosa? Dire, prima o poi bisognerà chiedere alla Lega: scusate, ma voi in questi 20 anni avete governato in maniera interrotta il Veneto, la Lombardia, in maniera alternata il Piemonte. Questi prima o poi qualche responsabilità di cosa è successo in questi anni se la prenderanno, immagino. Non è che c'è stato, come dire, la magistratura cattiva, i meridionali che gliel'hanno impedito. I Nicodemo che hanno impedito questo. Lega parla di secessione dal 1996 senza aver poi combinato nulla, e quindi titillare il peggio di certi istinti, appunto, rivoluzionari o meno, bacuniani o meno che siano, poi alla fine qualche cosa lascia, insomma, sicuramente. Allora, intanto dobbiamo sentire le informazioni sul traffico, e poi è tornato lui Silvio Berlusconi, prepotentemente è il titolo di apertura di molti giornali. Berlusconi è andato al Colle dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, il Fatto Quotidiano subito titola: un pregiudicato al Quirinale. I titoli, le polemiche, da qui ripartiamo. 24 mattino. Sono le 6:15 e sono in coda numero 4 per andare in un ufficio statale a parlare di pensioni per mia mamma. Sono 3 giorni che cerco di andare. Consegnano 10 bigliettini e se non ci stai dentro devi andare il giorno dopo. Abbiamo visto l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Si sente parlare dell'abolizione del Senato, abolizione delle province, ma poi queste abolizioni diventano riforme, riformare, modificare, modulare, al fine cambiano solo il nome e tutto rimane come prima. Ali, Alino, Milan, Ale, parla, ci convincerai che non ce la faremo mai. Ciao Alino e forza Milan. Forchelli, ma va a far du bouquet, come si fa a non venire più a dire 4 cazzate come dici tu, sempre. Ciao Cacchetti. Il Veneto fa la rivoluzione, vuol diventare da solo una nazione, ha preparato pure un carro armato per dichiarare guerra al nostro Stato. ma su San Marco volano i colombi ed i carristi sembrano degli zombie. Ciao ne, da Felice Pautasso. Grande Felice Pautasso, che lo stornellatore Pautasso è diventato nostro amico a 24 mattino, e viva al nostro Parlamento, capito Tortorella? Cosa ri? Ah, devo dire, tutti mi chiedono Forchielli, ma io Forchielli lo chiamerai tutti i giorni, ma sta in America, sta dormendo, c'è il fuso orario, tornerà quando sarà a Hong Kong, credo a maggio, insomma, rispunterà quando potrò, lo chiamerò. Come è meglio Felice in diretta, è un genio. Felice Pautasso, sì sì, è un grandissimo. Allora, Berlusconi. Caro Nicodemo, questa è una patata bollente per il PD, perché arriva il 10 aprile e Berlusconi vuole l'agibilità politica. Ieri è andato da Napolitano. Intanto, ti scandalizza che vada da Napolitano? No, sì o no? No. No, non ti scandalizza. È perché il fatto, vedi, titola un pregiudicato al Quirinale. Non... Dici, chi se ne frega? No, vabbè, è giusto. Io... Beh, sono i titoli che vuole. No, che dice Maurizio? Beh, che è comunque il capo dell'opposizione. Sì, però c'è questa cosa lì, della condanna, no? Cioè. È condannato, ma è lì a piede libero. No? Sì, è chiaro, però è andato lì per cercare un'agibilità politica in vista del 10 aprile. Il 10 aprile è tra 5 giorni. Ma il Presidente della Repubblica deve riceverlo, mica può farne meno. Sai, ma oggi il Corriere della Sera racconta un po' l'imbarazzo di Napolitano, che però giustamente dice proprio perché è leader dell'opposizione, l'ha ricevuto, ma ben sapendo che si espone anche a qualche critica, ecco perché. Anche Renzi si è esposto a qualche critica incontrato. Infatti, ma la questione. Ha fatto bene. Sono veramente le solite stronzate. La seconda domanda, però, era questa: Nicodemo, anche Renzi potrebbe reincontrare, cioè pare che Berlusconi voglia un nuovo incontro al Nazareno ufficiale per far vedere sono io quello legittimato ad aver scritto quel patto, ad aver fare le riforme, eccetera. Eccomi qua, sono Silvio Berlusconi. Dovrebbe incontrarlo oppure ci potrebbe essere qualche imbarazzo, che ne so, due giorni prima magari del 10 aprile? Ma sinceramente l'impianto dell'accordo fino adesso tra Renzi e Berlusconi sta funzionando. Provo a essere neutro, diciamo, a vedere i risultati delle cose che si sono detti quel giorno a Nazareno. Si è parlato della legge elettorale, la legge elettorale nei fatti è partita. Si è parlato del tema della riforma del Senato, la riforma del Senato sta per partire a brevissimo. C'è il tema del titolo quinto ed è quello su cui bisogna ragionare. Ora sinceramente, cioè, se da quell'incontro sono partite le riforme di cui tutti parlano da 20 anni e più e finalmente, diciamo, dopo arrivato insomma un uomo di 39 anni che ha smosso il sistema, è uscito dalla palude e tutto si sta mettendo in moto, io non ci trovo assolutamente niente di strano, anzi, diciamo, se tutto questo sta in qualche maniera permettendo a un paese un poco, o come dire, bloccato, incriccato nell'istituzione, di darsi una mossa, tutto questo è stato un effetto positivo. Dopodiché l'effetto positivo mi pare che fino adesso sia tutto a vantaggio di Matteo Renzi, visto i tassi di fiducia di cui gode. Vabbè, però tu lo sai bene, no, ma lo sai bene che se ci dovesse essere questo incontro ripartiranno, no, le polemiche, ma come, è un pregiudicato in attesa di essere o affidato ai servizi sociali o agli arresti domiciliari. Non so se si rincontreranno, però come dice il capo del governo Matteo Renzi, ce ne faremo una ragione. Sono 20 anni che si fanno polemiche, sono 20 anni si è discusso solo di Berlusconi in questo paese, sinceramente. No, ma infatti, in questo è vero, Maurizio è riuscito a riporsi al centro con i titoli di prima pagina dei giornali, Silvio Berlusconi. D'altronde si avvicina il 10 aprile o il 15, quello che sarà, insomma, se viene spostata di qualche giorno. Insomma, ormai obiettivamente ancora non si sa che cosa accadrà appunto dal 10 al 15 o quello che sarà anche dopo, magari il destino giudiziario di Berlusconi, se sarà concesso l'affidamento ai servizi sociali, se dovrà scontare la pena agli arresti domiciliari, è tutto molto ancora incerto. Indubbiamente qualunque sia la fine che farà, un problema per Renzi si pone, perché se Berlusconi dovesse essere silenziato per 8 mesi, un anno, probabilmente il partito qualche problema, scossone, qualche scossone lo avrà. E la scomparsa dell'integrità e del silenziamento obbligato nei confronti dell'uomo col quale lui ha stretto un accordo di quel tipo lì, sì, può rappresentare qualche problema. Tra l'altro qualche oggi violenza in Parlamento. La stampa racconta oggi con Ugo Magri, che è sempre ben informato riguardo a quello che succede attorno a Silvio Berlusconi, che se ci saranno gli affidamenti ai servizi sociali, in testa, in pole position dovrebbe essere l'Unitalsi, opera benefica con sede in via del Plebiscito, che organizza i viaggi dei malati a Lourdes. Quello lo decide un tribunale. Sì, certo, però il pole position è questa. Ma io non vi posso lasciare senza il Brunetta del giorno. E ieri Renato Brunetta è stato veramente epocale, signor conduttore. Era perché Brunetta, questa cosa, anche quando lo intervistiamo noi, pretende di essere intervistato da solo, cioè non vuole un'interlocuzione con altre persone. Evidentemente aveva preso questo accordo anche ieri, anche in TV con Agora su Rai 3. E allora a un certo punto, quando Faraone del PD è intervenuto per interloquire con Brunetta, ecco Brunetta che si è piccato. Scusi, conduttore, signor conduttore, eccoci. Mi scusi, pronto. Mi era stato detto che mi faceva un'intervista. No, Movimento 5 Stelle. No, mi è stato detto, io me ne vado in questo momento. Le faccio tutte le interviste che crede, però mi scusi, signor conduttore. Lei non mi cada nelle provocazioni. No, signor conduttore, mi scusi. Vabbè. Signor conduttore, mi scusi. Pronti. E vabbè, signor conduttore, poi ce n'è un'altra forse, ancora Brunetta. Signor Brunetta, mi dica una cosa. Signor conduttore, no, mi risponda, per favore. Sì. Risponda. Mi dica. Mi era stato detto che lei avrebbe dovuto farmi un'intervista. Ed eccomi qua. Benissimo, sono stato interrotto in malo modo da un signore che non conosco. No, Faraone lo conosce, è suo collega parlamentare. Mi dispiace, non lo conosco. Non lo conosce, vabbè, insomma, è qui. Che cosa ridi? Vabbè, è Brunetta, così ognuno ha avuto la sua, come dire. Ieri ha detto una cosa che per noi PD è molto grave, cioè il nostro partito, noi una grande innovazione abbiamo portato nella politica italiana dal 2007, che sono le primarie per eleggere il leader del partito, sì, a cui partecipano milioni di persone. Sentirsi dire che noi facciamo primarie false, sinceramente, va bene tutto. Diciamo, io mi sono fermato al signor conduttore. Vabbè. E poi io nel salutarvi, intanto ringrazio Francesco Nicodemo, Maurizio Tortorella. Trovate il numero di Panorama in edicola, proprio secessione, no? Molto azzeccato il titolo sul Veneto, gli indipendentismi e ovviamente casca fagiuolo, come si suol dire, con quello che è successo. E andiamo al GR, ma con un altro Brunetta, che dopo la disfida verbale se ne va. Bene, comunque non si faccia turbare, adesso vi presento, vi mettete d'accordo e poi continuate fuori di qua. Signor conduttore, arrivederci. Va bene, grazie a Brunetta. Allora, io avrei voluto chiedere, però mi dispiace quando i nostri ospiti se ne vanno, avrei voluto chiedere a Brunetta di ieri, di Renzi. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti in punto, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e siamo pronti tra un'ora esatta a parlare, approfondire la questione di quello che è successo in Veneto. Allora, secessionisti da operetta o da osteria, oppure rischio davvero di terrorismo casalingo di indipendentisti che sono stati sventati, sono stati fermati, bloccati in tempo dalla procura di Brescia, gli arresti ieri in Veneto. Ovviamente questo è un tema che troviamo molto molto sviluppato sui giornali e proprio dai giornali vogliamo partire, andiamo alla lettura. È giovedì 3 aprile. I titoli, il Sole 24 Ore, al titolo economico sui mutui, riparte il mercato, guida alle nuove offerte. mentre la notizia in realtà che è la notizia di prima pagina per molti quotidiani è l'incontro di Berlusconi, l'incontro a sorpresa ricevuto da Napolitano. Berlusconi al Colle a sorpresa, così titola il Corriere della Sera in prima pagina. Per Repubblica, Berlusconi da Napolitano, chiedo tutela. La Stampa, Berlusconi al Colle per chiedere garanzie, ma Napolitano dice no. Ecco la Stampa nel titolo, quindi anche la risposta di Napolitano. Berlusconi al Colle, garanzie, così apre il Messaggero, mentre il Fatto Quotidiano è duro. Un pregiudicato al Quirinale, Berlusconi ricatta il governo. Mentre anche il Manifesto mette la foto di Napolitano e Berlusconi, il titolo è irricevibile. Berlusconi non si rassegna, invece apre così l'Unità. Mentre il Veneto, il ritorno dei Serenissimi per il secolo XIX, libero clandestini liberi, veneti in galera. Ma il miglior titolo forse è quello del Giornale, golpe da Mona. Questo è il titolo a tutta pagina, folle retata in Veneto, golpe da Mona. In prima pagina del Giornale, Avvenire, indipendenza con la forza, retata in Veneto, mentre il Giorno mette ruspa da guerra, gli arrestati e questo il tanco modificato, no? Il tanco che servì all'assalto a Piazza San Marco anni fa e ora è stato modificato in una sorta di cingolato trattore tanco blindato e viene fotografato in prima pagina. Io partirei proprio da qui, è la notizia comunque di cronaca certamente più importante, come scrivono tutti i giornali. Scrive il Corriere a pagina 2, presi i nuovi Serenissimi, pronti ad azioni violente, niente a che vedere con l'occupazione di Piazza San Marco da parte dei Serenissimi l'8-9 maggio del 97, secondo la procura invece questo era un disegno eversivo molto più ampio, erano pronti alla rivolta popolare armata da mettere in campo con un'iniziativa eclatante nel periodo delle prossime elezioni europee. I secessionisti, secondo gli inquirenti, avrebbero dunque proseguito la saldatura di più movimenti separatisti per collaborare all'attacco all'unità dello Stato, a rendere più difficile la sua reazione contro la proclamata indipendenza del Lombardo-Veneto. Per raggiungere l'obiettivo sarebbero ricorsi anche all'uso della violenza, secondo i magistrati. Per procurarsi le armi leggere avrebbero intessuto una serie di rapporti anche con la criminalità albanese. In Serbia, Svizzera invece avrebbero dovuto sorgere le ambasciate del movimento in un capannone a Casale di Scodosia, chiamato Arsenale, in provincia di Padova. Se ne stava parcheggiato un carro armato artigianale, detto tanco, ricavato da una pala cingolata poi blindata e dotata anche di una bocca di fuoco. Alcuni membri dell'organizzazione avevano già provato a sparare a salve. Queste insomma le motivazioni, con tanto di intercettazioni e le intercettazioni, per la verità, vabbè, ci sono alcuni di questi che parlano, come quel tale Orini che è stato arrestato. È arrivato il momento di combattere, ragazzo, se stiamo qui ad aspettare, qui a poco, a breve salta tutto, dice a un interlocutore. Se c'è da prendere il fucile io lo prendo, assicura l'altro interlocutore, Luigi Faccia, che sollecita Orini a non mollare. Leggo da alcune intercettazioni, sono tutte pubblicate sui giornali. C'è anche questa intercettazione, altro che salame, perché uno dice a un certo punto, vabbè, se va male andiamo in osteria a mangiare il salame, ma altro che salame, carichiamo la dinamite. Allora, ovviamente qui i giornali si dividono tra chi lo definisce un po' un golpe da osteria, un golpe da operetta, un golpe da spritz o un golpe da Mona, come dice il Giornale, e chi invece lo prende maledettamente sul serio. E ci sono anche interviste, ci sono delle dichiarazioni, per esempio di Giancarlo Orini, appunto, 74 anni, prima di diventare indipendentista ha militato nella Lega di Bossi. A pagina 5 della Stampa, Nicolò Zancan, il fondatore, altro che Bin Laden, volevamo solo dare un segnale e ai domiciliari, ma parla, terrorista e Bin Laden, mingami, siamo sullo spiazzo della ditta Caravan 70 tra Adro e Castagnato, piena Padania leghista. Fino a martedì qui lavorava Giancarlo Orini, 74 anni, quello che la procura ritiene il fondatore di questo movimento indipendentista Alleanza, e lui Dice: quando Bossi ha definito ubriaconi gli indipendentisti della Serenissima, ho capito che non potevo stare nella Lega un minuto di più. L'Europa non sarà mai unita, credo si dovrebbe tornare al tempo delle città-stato, allora sì che i commerci funzionavano. Forse abbiamo sbagliato, non abbiamo calcolato le conseguenze, pagheremo per gli errori commessi, ma volevamo dare un segnale. E la battuta sull'esplosivo, ecco, lui la definisce così, ma sì, era una battuta, al massimo abbiamo qualche fucilino e basta. Certo, chi si è molto adombrata è la Lega. La Lega, con una serie di interviste, Flavio Tosi, intervistato dalla Stampa, intervistato dal Fatto Quotidiano, dice la sua. Per esempio, intervistato dal Fatto Quotidiano, dalla Stampa, scusate, dice: un'operazione giudiziaria come questa che crea soltanto dei martiri, ma certo, chiunque si rende conto che sono dei perseguitati, la gente di solito prova simpatia per i perseguitati, con tutto ciò che poi ne consegue. Ma scusi, Tosi, c'era anche un carro armato, ma chiamare carro armato quel coso lì mi sembra un'offesa ai carri armati veri. Ale è un trattore, cioè un trattore, dice Tosi. Secondo l'indagine progettavano iniziative violente con il salame, ma le avete sentite le intercettazioni? A me viene da ridere. E poi il Fatto Quotidiano dice: se mi sentissero quando parlo al bar e sparo cazzate, ci sarebbe da arrestarmi. Insomma, la linea di Tosi è quella del rendere tutto questo una questione da osteria. Mentre Massimo Cacciari viene intervistato anche lui sia dal Corriere della Sera e sia dal quotidiano Il Giorno, al Giorno dice a Matteo Massi: ma per carità, ma che politica, questa è cronaca psichiatrica, tutta colpa di politici irresponsabili che hanno assunto iniziative che seminano tempesta, attecchiscono su chi è debole di mente, lo definisce così, debole di mente. Mi riferisco a certi appelli deliranti che inneggiano all'indipendentismo senza rendersi conto di quali possono essere le conseguenze di una situazione come questa. La causa di tutto ciò sono 20 anni di immobilismo. Dopo Tangentopoli si doveva fare una riforma organica costituzionale, serviva allora una costituente, ma invece non è stato fatto. Mentre Matteo Salvini, il leader della Lega, intervistato da Libero, dice: ora pagheremo gli avvocati di questa gente. La Lega si schiera, questo è il titolo di Libero a pagina 5, troppe coincidenze ci vogliono intimidire, a Roma votano lo svuota carcere, l'abolizione del reato di clandestinità e poi arrestano gli indipendentisti. Per metterci paura lo stanno facendo, si stanno spaventando, c'è vitalità autonomista e non solo del nord, penso anche alla Sardegna e alla Sicilia, e rivendico che siano un po' spaventati anche da questa Lega. Roma e Bruxelles, ormai li metto sullo stesso piano. Comunque siamo vicini a queste persone, alle loro famiglie, stiamo valutando di fornire loro assistenza legale il prima possibile, andremo a trovarli in carcere. Tanto che la domanda di Matteo Pandini sul Libero a Salvini è: ma scusi, lei è secessionista? Sono indipendentista, sì, così risponde Salvini. Mentre ce n'è anche per Umberto Bossi, che viene intervistato da Repubblica, e Umberto Bossi dice anche lui sostanzialmente che è stato un errore questa inchiesta. Intervistato da Lavinia Rivara, trovate l'intervista a pagina 9, sono stati i servizi segreti e la gente ora si incazza, questi arresti sono un errore, uno sbaglio, vogliono solo fermare il movimento con un trucco, io ci credo poco, dietro queste operazioni c'è quasi sempre l'intervento dei servizi, stanno bluffando per bloccare l'indipendentismo, ma non funzionerà. Così Umberto Bossi. Ci sono ovviamente tante analisi su quella che per Libero è l'armata Brancaleon, per Il Giornale un golpe da Mona, e invece per Matteo Renzi, che ha detto fiducia nella magistratura, evidentemente qualcosa di ben più serio. Va bene, prima della pubblicità vi voglio regalare il sogno di questo operaio della Fiat, sogno, insomma, questa vicenda che è uscita fuori sui giornali e oggi viene intervistato da tutti. Si può vivere in casa con un Gauguin comprato per 45.000 lire di allora, un Gauguin che vale 30 milioni di euro? Si può. È successo a questo operaio che ha comprato questo quadro, che è un Gauguin, evidentemente rubato anni fa, Lui l'ha trovata a un mercatino, ha contrattato 45.000 lire, l'operaio con il Gauguin appeso in cucina per 40 anni. Questo è il titolo del Corriere, ma anche Repubblica lo intervista. Io 40 anni con il Gauguin in cucina, il signor Nicolò. Anch'io pensavo sarebbe stato facile aggiudicarmi due quadri, 50.000 lire, nessuno si era proposto, io puntavo direttamente alla seconda tornata col prezzo ribassato e poi sono tornato a casa la sera, li ho spuntati a 45.000 lire, li ho appesi subito in salone. Dopo tanti anni mio figlio, facendo degli studi, ha confrontato la dedica del quadro, che non è firmata, con alcune lettere scritte dal pittore, abbiamo capito che era un Gauguin vero. A quel punto ci siamo rivolti alla sovrintendenza. Ci dissero che la storia era impossibile, non potevano perdere tempo con noi. Restavano solo i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale. Lì abbiamo avuto le risposte che cercavamo da anni. È veramente un Gauguin. Morale della favola, mi sa che lo devono restituire perché è stato trafugato anni fa a una famiglia nobile inglese, questo Gauguin. Però se lo sono tenuto in casa per 40 anni, uno entra e dice: guarda lì, che cos'è? Un Gauguin. Dai, ma faccia pairat, come dicono a Milano. E invece no, era un Gauguin, 40 anni lì, e vale 30 milioni, solo che mica se lo possono tenere, mi sa. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:32 minuti, allora notizia politica del giorno, con cui aprono quasi tutti i quotidiani, la metà dei quotidiani, è il fatto che Giorgio Napolitano, capo dello Stato, ieri ha ricevuto al Quirinale Silvio Berlusconi ed è stata una visita a sorpresa. Perché? Perché arriva il 10 aprile. Il 10 aprile è il giorno in cui si stabilirà la sentenza per Berlusconi, o meglio il tipo di condanna da scontare, se l'affidamento ai servizi sociali o se gli arresti domiciliari. Pare più probabile la prima. Sta di fatto che ieri Berlusconi, in vista di questo 10 aprile, è andato da Napolitano per parlare di riforme ma anche del fronte giudiziario. Questo è il titolo del Corriere: Berlusconi da Napolitano per parlare di riforme e fronte giudiziario. Dino Martirano racconta, al termine di una giornata apparentemente interlocutoria, la notizia dell'incontro serale tra il capo dello Stato e Berlusconi ha riposizionato in cima all'agenda il tema dei numeri presenti in Parlamento per portare a compimento il percorso delle riforme, perché la visita al Quirinale dell'ex premier assume significati molteplici. In assenza di un verbale del faccia a faccia, si può ritenere certamente che sia stato messo in evidenza dal leader azzurro il contributo che il suo partito può dare sul terreno delle riforme. Ma certamente anche il tema dell'agibilità politica in vista del 10 aprile è un tema che è stato affrontato, tra l'altro 10 aprile o 15 aprile, perché c'è la possibilità che venga posticipata di qualche giorno questa decisione dei magistrati. Sta di fatto che il Fatto Quotidiano tuona in prima pagina con questo titolo: un pregiudicato al Quirinale, Berlusconi ricatta il governo. Il quirinalista del Corriere della Sera, Marzio Breda, racconta, pagina 8, quell'udienza che non si poteva negare, il colle e l'impraticabilità della grazia. Segno che si è parlato soprattutto di questo. Un'udienza, scrive Breda, che non poteva essere negata perché a chiederla era il capo di un partito che ha svolto un ruolo di primo piano per un periodo notevolmente lungo nella vita politica e istituzionale del paese. Un uomo che è stato votato e rivotato da milioni di italiani. Sono state queste le considerazioni in base alla quale Napolitano ha deciso di accogliere la richiesta di incontro avanzata da Berlusconi, sapendo bene di esporsi a polemiche e recriminazioni, perché così si legittima un pregiudicato, questo virgolettato, che è l'accusa politica che fanno per la verità molti. Ugo Magri, in prima pagina della Stampa, racconta un po' il retroscena di questo incontro che c'è stato ieri al Quirinale. E di questo incontro Ugo Magri scrive così: solo chi crede alla favola e alle favole può immaginare che nella visita di ieri sul Colle Berlusconi abbia parlato solo di riforme costituzionali o degli interessi russi in Crimea. Il cavaliere tenta in realtà il tutto per tutto, non gli restano che 7 giorni a piede libero. O forse un paio in più, perché l'udienza davanti al Tribunale milanese è fissata al 10 aprile, ma i giudici possono aver tempo fino al 15 per decidere. Ebbene, Si è parlato certamente di questo ed è impossibile al momento prevedere se trascorrerà il prossimo anno relegato in casa agli arresti domiciliari oppure con 10 mesi e 15 giorni di affidamento ai servizi sociali. Anzi, è più probabile questa seconda ipotesi, scrive La Stampa, e in pole position pare ci sia come affidamento alla Unitalsi, opera benefica che organizza i viaggi dei malati a Lourdes e che ha la sede in via del Plebiscito. Comunque decideranno ovviamente i magistrati. L'uomo, scrive Ugo Magri, cioè Berlusconi, è testardamente convinto che l'affido ai servizi sociali sarebbe mille volte più devastante per il suo sconfinato amor proprio, in quanto diversamente dai domiciliari richiederebbe l'adesione a concetti come pentimento e recupero alla società. Un tempo si sarebbe parlato di redenzione, concetti a lui del tutto alieni. La prospettiva di farsi redimere anche solo attraverso colloqui settimanali con un assistente sociale vissuta da Berlusconi alla stregua di un'ingiuria. Primo, perché lui continua a proclamarsi innocente, e di qui lo stato d'animo del leone in gabbia. Secondo, il cavaliere trova altamente offensiva la pretesa che un assistente sociale possa insegnare a lui come si campa da persona onesta e valutare strada facendo se ha ben digerito il concetto. Con tutti i visitatori si sfoga così. Come si può imporre un'umiliazione del genere a chi è stato imprenditore, ha dato lavoro a 50.000 famiglie, ha fondato la TV Libera in Italia, per 4 volte è stato premier, ha rappresentato l'Italia in tutti i consessi, ha parlato addirittura davanti al Congresso degli Stati Uniti? I giudici però potrebbero prenderlo in parola e dirgli: ah sì, non gradisce i servizi sociali, allora si accomodi ai domiciliari. Sta di fatto che questa data si avvicina e infatti anche nel retroscena pagina 9 del Corriere della Sera di Tommaso Labate si parla di richiesta di agibilità politica, quella avanzata a Giorgio Napolitano. Ho bisogno dell'agibilità politica perché sono l'unico che può garantire la tenuta di Forza Italia sulle riforme. Senza di me, puntini puntini, insomma agitando lo spettro della possibile crisi delle riforme. Sta di fatto che staremo a vedere, ecco, da qui manca una settimana, se è il 10 aprile, quindi giovedì prossimo, oppure qualcosa di più. Ieri la giornata politica ha vissuto anche un momento di grande tensione in Parlamento con l'abolizione, che l'avevamo anticipato ieri, lo anticipava La Stampa, del reato di clandestinità. È stato abolito questo reato introdotto da Roberto Maroni, c'è la protesta dei deputati della Lega, che ieri hanno alzato i cartelli clandestino e reato, reato di clandestinità, addio tra le liti. C'è la protesta anche del Movimento 5 Stelle, Forza Italia si è spaccata. Tra l'altro hanno anche abolito il reato di coltivazione di hashish, di marijuana, in casa. Questa è la giornata politica, si è soprattutto prodotta in questo in Parlamento, mentre a proposito di Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle non solo si è espresso contro a questa decisione di abolire il reato di clandestinità, ma c'è anche un'intervista oggi a Beppe Grillo. Beppe Grillo viene intervistato da Repubblica, da Tommaso Ciriaco, è partito da Catania al suo tour e dice in un'intervista a Repubblica, pagina 11, o vinciamo alle europee e li mandiamo a casa, oppure mi ritiro. L'argomento è ostico, l'Europa fa ridere in questi spettacoli sull'Europa, lo so, è difficile, d'altra parte non l'avrei fatto se non ci fossero state le europee e così ho preso questa decisione di parlare d'Europa. Se riusciamo a prendere i voti, 2 milioni di voti per il movimento, per il resto non prenderemo tantissimo dagli altri partiti, il 2 o 3%, ma io cerco di conquistare le persone che devono votare. Dobbiamo mandare davvero via tutti stavolta e possiamo farcela, ma bisogna che la gente capisca che lo facciamo per loro, che è là in Europa che si decide tutto. C'è anche una frecciatina per il sindaco di Parma Pizzarotti, col quale c'è stata sicuramente qualche incomprensione, e alla domanda di Repubblica sulle tensioni col sindaco Pizzarotti, sospira così Grillo, diciamo che è uno che ha bisogno di visibilità. Poi Grillo allarga le braccia e prosegue: Pizzarotti può dire quello che vuole, non è che la mia parola vale qualcosa, io esprimo un parere, sono solo una voce. E poi c'era ancora coi giornalisti: mi siete terribili, mi fate paura, siete Walking Dead. cioè morti che camminano, così Beppe Grillo. A proposito di morti che camminano, Mauro Meazza, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, stavolta ci sta, effettivamente parlava della categoria. Il Walking Dead, eccolo qua. Sì, sì, sì, con l'abituale affetto che conosciamo, appunto, certo. Sempre ci dedica. Il professor Grillo, sarà professore anche lui come minimo. Ma no? Professore non si nega a nessuno. Ma cosa? Professor Meazza, professor Milan, professor Grillo. Insomma, io mi accontenterei di essere un po' più vivacetto, ecco, un po' più vivo, ma non importa, ecco, poi vediamo cosa si può fare. Senti, allora, a proposito di professori, oggi bisogna imparare delle parole nuove. Sì. Se ancora tax gap, ad esempio. Ah. Tax gap. Beh, tax, tassa, gap, insomma, il praticamente gap, no? Quello che ci mancherebbe nel piatto, insomma, dovremmo incassare così, ma invece, accidenti, prendiamo un po' meno, come sì. Mai? Insomma, è un modo edulcorato per indorare una pillola che mi verrebbe un'espressione un po' più italiana. Delusione fiscale, comunque, se non hai compreso bene di cosa si tratta, allora prendi il Sole 24 Ore, le pagine di norme e tributi, c'è anche una bellissima cartina dove l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito, diciamo, la tendenza al tax gap, cioè la situazione del tax gap area per area in Italia, e così poi uno può vedere se sta in un'area ad alta propensione di evasione oppure a minore propensione di evasione. Va bene. È uno degli effetti, appunto. Milano com'è? No, Milano è in questa area, hanno tutti nomi di film, tra l'altro, in questa area chiamata Metropolis, sì. Che è considerata a discreto, insomma, ad alto rischio di evasione. Molto anche bene. Per la numerosità dei contribuenti presenti, quindi le amnesie poi in dichiarazione possono essere maggiori, no? Proprio certo, per questioni statistiche. Se vuoi finalmente comprarti la casa, sono mesi che ne parliamo di questa cosa, Alessandro. Allora, abbiamo fatto una pagina per aiutarti a scegliere la rata del mutuo, pagina 2. Sì. Prima o poi dovrei farlo, sì. Stanno ripartendo, si muovono lentamente, ma stanno ripartendo le erogazioni. Allora, come fai a scegliere quello che è più adatto a te, i tuoi 2 euro? Ecco, adesso magari con i 2 euro bisognerà parlarne un momento, però ti abbiamo messo a confronto anche una serie di offerte così che tu possa essere agevolato nella scelta. Se invece i 2 euro li vuoi proprio mettere altrove, guarda, forse il Milan si quota in borsa. Infatti, il 20% del Milan con 2 euro ormai viene via. Il 20% non lo so, però se stanno cercando uno sceicco per dargli il 20%, forse ci vuole qualcosa di più di 2 euro. Però va bene. Questa è la mia impressione, ma da esperto, anzi da Walking Dead. Però credo che tu possa aspettare una quotazione e poi mettere i tuoi 2 euro sul Milan, potrebbe darsi, no? Mm-hmm. A meno che tu non li debba usare per la TASI. Lì, la TASI è l'altra parola che devi imparare. Stai studiando la TASI, Alessandro? Sì, ecco, guarda che ne parleremo tanto quest'anno di TASI. Nei soliti nostri capannelli al bar, per attirare tutte le belle ragazze, ovviamente. Per attirare le ragazze parliamo di TASI. Insegniamo questi siparietti discutendo di TASI, rispondiamo anche a delle domande, così facendo un po' sfoggio della nostra preparazione. Ecco, guarda che stanno modificando ancora un po' le regole, forse paghiamo, diciamo, con regole vecchie in una prima fase, sposarsi a giugno e poi pagheremo tutto in fondo a dicembre, si vedrà. Comunque Gianni Trovati ti spiega tutto e naturalmente ti spieghiamo che per le strisce blu, per la famosa questione sì. Del parcheggio da pagare o no per le strisce blu, ci vuole una circolare. E Maurizio Caprino l'aveva detto ieri, l'ha confermato anche in audizione al Ministero. Arriverà. Aspettiamo la circolare. Tu leggi sempre Maurizio Caprino quando stai per occuparti di cosa? Di quella traffico. Roba lì. Traffico. Ovviamente ovvio, traffico. Ovvio. Alessandro Milan, il Gigro Bonacciaio dell'informazione. Mannaggia, devo ancora mettere la foto. Io non c'ho la testa. Devo ancora mettere la foto che il grande Romano Malaspina, al quale voglio mandare un abbraccio enorme, gigante, mi ha mandato il pupazzetto di Gigro Bonacciaio d'antan. Devo fare ancora la foto e metterla su Facebook. Lo faccio, promesso. Su quelle cose promesse da mariti che si fa alle mogli. Lo faccio. Va bene, allora attenzione, perché Silvio Berlusconi, attraverso Renato Brunetta, ha lanciato un'iniziativa. Sapete che la svolta animalista è anticipata da tempo di Silvio Berlusconi, ormai è un dato di fatto. E allora arriva il Doo-Doo's Act. Il Doo-Doo's Act non è uno scherzo, è la legge Doo-Doo. Compri, cioè compri, ecco già ho sbagliato, mamma mia, adesso gli animalisti mi ammazzano. Vuoi un cagnolino per i tuoi bambini? Ne vuoi uno per il nonno che si sente tanto solo? Basta andare a bussare in qualsiasi canile pubblico italiano, insieme al cagnolino ci si porterà a casa il buon affare economico, perché non solo non pagherete un assegno, ma lo Stato ti regalerà 200 euro sotto forma di sconto dalla TARES dovuta al comune di residenza. Questa è la proposta di legge, il Doo-Doo's Act, voluto da Renato Brunetta, dal vulcanico Brunetta, lo scrive Franco Bechis, vice direttore di Libero, in prima sulla Stampa. Lo sconto per il e anche l'assicurazione auto, cioè prendi un cagnolino o un gattino e ti danno lo sconto sulla TARES. Ecco il Doo-Doo Act. L'ultima proposta di Forza Italia. Brunetta esamina i vari modelli esistenti di welfare animale in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, raccontando i piani assicurativi esistenti, che peraltro coprono sia alcune spese veterinarie che i rischi di incidenti e le malattie congenite ereditarie croniche. E da qui nasce il Doo-Doo's Act. Questa è l'idea di Brunetta. Per quel che riguarda invece eravamo rimasti ancora a Beppe Grillo, c'è anche Casaleggio che ieri ha fatto sentire la sua voce, il cosiddetto guru del Movimento 5 Stelle, ha fatto delle accuse, pronti dei dossier per infangarmi, ha dato questo allarme, usciranno dei dossier per infangare me e la mia famiglia, per questo ho deciso di rilasciare una serie di interviste a giornalisti indipendenti. Allora esistono. Questa è la notizia, esistono giornalisti indipendenti per Casaleggio e credo che siano interviste, così dice un giornale, al Fatto Quotidiano e al Corriere della Sera, così avrebbe deciso. Vabbè, la situazione economica però è una situazione economica difficile, soprattutto per le pensioni, ancora in primo piano. Allora, il ministro dell'economia Padoan, ricordate che si pronuncia così, Padoan, non Padoan, ma Padoan, ha detto che ci saranno i soldi e gli 80 euro per in busta paga a maggio. E questa era la promessa che ha fatto Matteo Renzi, e ieri il ministro dell'economia ha confermato l'intervento IRPEF nelle buste paga di maggio. La notizia però economica che oggi sui giornali riguarda i pensionati. Sempre la situazione difficile, 7 milioni di pensionati sono sotto i 1000 euro. Questo è il titolo di Stefania Tamburello e del Corriere della Sera, con l'articolo di Stefania Tamburello a pagina 5. Voglio rassicurare tutti, ha detto Padoan, il provvedimento sarà attuato, quello dell'IRPEF, ma sono questi 7 milioni di pensionati sui quali il ministro ancora ha escluso interventi sulla previdenza, no? Per i dettagli si vedrà. Dunque, esclude in un certo senso gli interventi sulla previdenza proprio nel giorno in cui però il Messaggero in realtà ha una ipotesi diversa. È in prima pagina e l'ipotesi è spunta, o meglio rispunta, perché rispunta per l'ennesima volta, l'ipotesi di una tassa per le pensioni d'oro. Quindi ci sarà questo intervento sulla previdenza oppure no? Beh, sicuramente no sulle pensioni, quelle sotto i 1000 euro, sulle pensioni sopra anche i 1000 euro, ma le pensioni d'oro oltre i 10.000 euro, così scrive Andrea Bassi sul Messaggero in prima pagina, l'articolo poi continua a pagina 6. L'ultimo a tirare in ballo l'argomento è stato qualche giorno fa il vice ministro dell'economia Morando. Ha ventilato l'ipotesi di un contributo sulle pensioni d'oro, intendendo quelle superiori ai 10.000 euro netti mensili, 10.000 euro netti mensili. Un tema delicato sul quale il governo è molto prudente, soprattutto per la levata di scudi che si è sollevata dopo che il commissario alla spending review Cottarelli aveva ipotizzato nelle sue slide che il prelievo potesse essere introdotto anche sugli assegni previdenziali di 3.000 euro lordi al mese. Così quando ieri da Atene il ministro dell'economia Padoan, pur escludendo ogni intervento sulla previdenza, ha parlato di discussione sui dettagli di quelle più alte, a molti si sono drizzate le antenne. Ecco, quando ha parlato di dettagli dicono non è che in realtà per le pensioni alte c'è un intervento. Sta di fatto che su questo non resta che stare a vedere. A proposito di soldi recuperati dal fisco, ieri Befera, il capo dell'Agenzia delle Entrate, ha fatto sapere quanto si è recuperato dai famosi blitz a Cortina a Capodanno. Vi ricordate, con le annesse polemiche? Il fisco ha incassato 2 milioni di euro. Questo è il bottino che è stato snocciolato da Befera, come racconta Mario Sensini a pagina 19 del Corriere della Sera. Il fisco ha incassato 2 milioni dai blitz di Capodanno a Cortina. Il vice sindaco, polemico, dice: bravi, così i turisti sono scappati all'estero per questi 2 milioncini guadagnati. Addirittura il giornale, con Stefano Zurlo, quantifica in 20 invece i milioni che si sarebbero persi per il terrore delle persone che non si sono presentate a Cortina, paurose, intimorite per la possibilità di incappare in questi blitz, e quindi sono andati all'estero. E che autogol quel blitz a Cortina, persi 20 milioni, così titola il giornale con Stefano Zurlo, definendo questo come il blitz del fisco scaccia turisti. Quindi 2 milioni guadagnati ma molti persi, questo almeno secondo il giornale. Torna la questione della vicenda Stamina, ricordate la presunta cura, proprio nel giorno in cui oggi si apre il processo a Torino contro il suo inventore Vannoni, per truffa alla regione Piemonte. Vannoni a processo, e la novità proprio nel giorno in cui inizia il processo è che Brescia, gli ospedali di Brescia, dove si ospedale pubblico in cui si dava la cura Stamina, hanno deciso di interrompere queste infusioni. Brescia interrompe le infusioni di Stamina, timori per i medici, l'ospedale dice troppe le denunce minacciate. Quindi, come racconta Mario Pappagallo a pagina 18 del Corriere, anche a Brescia il commissario straordinario Ezio Belleri, in audizione alla commissione igiene al Senato, igiene e sanità al Senato, ha deciso di interrompere le infusioni di quella che per Vannoni è una cura miracolosa, per altri è una ciarlataneria. Va bene, ci fermiamo qui, è il momento della conclusione con l'articolo più inutile scovato sui giornali a mio insindacabile giudizio, perché ricordate che la carta costa, e oggi ce lo ricorda Libero con una pagina firma Bruna Magi: lo sceicco a caccia di modelle venete, lo shopping gratis se venite con me. È arrivato un emiro in Italia, cerca accompagnatrici formose per il suo viaggio in Europa. 100 euro al giorno, acquisti illimitati. Vabbè, insomma, poi se capita, come dire, insomma, una si deve un pochino, ecco, arrabattare, ecco, se magari arriva una qualche piccola richiesta. Ma vi rendete conto? Ma chi se ne frega di questo emiro? Ma se le cerchi, se le trovi, faccia quello che gli pare, paghi chi vuoi, ma scriverne una pagina su Libero. Arriva l'emiro in Veneto, venete, chiudetevi in casa, arriva l'emiro, le cerca formose. Andiamo al giornale radio 24 mattino. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, abbiamo scoperto ieri, con una serie di arresti, 24 per la precisione, della Procura di Brescia, che c'erano pronte, o ci sarebbero pronte, persone per azioni sovversive, per ottenere l'indipendenza del Veneto, secessionisti, pronti a tutto, pronti alla rivolta popolare armata, pronti a un'iniziativa eclatante da mettere in mostra nel periodo delle prossime elezioni europee. Un ex sottosegretario, alcuni leader del cosiddetto movimento dei forconi, secessionisti, per la procura di Brescia appunto sono stati fermati in tempo, avevano anche costruito un piccolo blindato travestito da trattore. Ecco, per la verità il sindaco di Verona Tosi, intervistato dalla stampa, dice proprio questo: ma l'avete visto, ma era un trattore, Ma avete sentito le intercettazioni? Finivano a mangiare pane e salame, così dicevano. Insomma, mi è venuto da ridere quando ho letto di queste inchieste. Sì, perché oggi sui giornali viene posta in modo antitetico chi appunto è allarmato per questa forma di secessionismo, anche con violenza incorporata, e chi invece parla di golpe d'austeria, di golpe da spritz, o titolo di prima pagina del giornale, golpe da mona. La Lega è certamente il partito che ha manifestato più solidarietà a queste persone. Il segretario della Lega Salvini, intervistato da Libero, dice: aiuteremo queste persone, pagheremo loro gli avvocati, li andremo a trovare presto in carcere. Ne parliamo di questo. Voglio salutare il senatore Felice Casson del Partito Democratico. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Grazie di essere qui. So che tra poco inizia il Copasir alle 8.30 e quindi la libereremo per quell'impegno. Voglio salutare anche il sindaco di Cittadella, Giuseppe Pan, cittadella in provincia di Padova, della Lega. Buongiorno sindaco, eccoci. Buongiorno dal Veneto. Allora, senatore Casson, intanto lei è chiaro, non, è tra l'altro ha una lunga carriera anche da magistrato, quindi ci può dare anche una lettura di questo tipo. Non so se ha letto le carte, non so se si è fatto un'idea, però i giornali la pongono proprio così: da una parte, ma che golpe, insomma, erano degli scalcagnati che giocavano a fare la guerra, dall'altra parte invece timore per questo rischio di violenza. Lei da che parte sta? Ma io credo che innanzitutto bisognerebbe leggere per bene le carte, soprattutto le intercettazioni telefoniche. Io non mi pongo né da una parte né dall'altra, perché mi pare che estremizzare in questo momento, soprattutto quando non si conoscono bene tutti gli elementi, sia eccessivo. E la prima impressione che ho avuto, anche vedendo quella specie o sottospecie di carro armato, è che questi mi sembrano più da perizia psichiatrica, perché pensare di arrivare con una cosa del genere o con delle pistole recuperate da in Italia o all'estero a programmare la secessione o la separazione dal Veneto mi sembra più una cosa da matti che altro. E peraltro ritengo che le verifiche, gli approfondimenti e così l'attenzione posta dalla polizia giudiziaria e dai carabinieri in particolare sia quanto mai adeguata, perché non dimentichiamoci che questa vicenda è nata in un territorio pieno di malcontento, malumori, anche fortemente espressi nei confronti delle istituzioni e soprattutto dello Stato italiano, e quindi all'interno di questo vasto malumore ci può essere qualche pazzo scatenato che può pensare a pistole e a fare così un po' il replay di quello che è successo 17 anni certo. fa. Certo, però lei quando, non so, per esempio lo stesso Tosi dice: ma se mi intercettassero quando al bar sparo cazzate, parole sue oggi dette al Fatto Quotidiano, ci sarebbe da arrestarmi, come dire, appunto, parole in libertà, no? Quando si parla armiamoci, facciamo, ecco, lei sia da ex magistrato ma sia da senatore del PD dice è da considerare in maniera così seria questa cosa, tanto da portare a degli arresti, tanto da portare a dire di golpe sventato, oppure è proprio una cosa da, come dice lei, perizia psichiatrica? Io proprio di golpe sventato non parlerei, perché mi sembra assurdo, però credo che se dovessi sentire delle intercettazioni in cui si parla di acquistare o recuperare delle armi, delle pistole, o si vuol preparare una specie, per quanto ridicola, di carro armato che potrebbe sparare, e prima di procedere a qualsiasi ulteriore iniziativa, arresti, così farei delle verifiche. Se le verifiche mi danno atto che ci sono dei personaggi pericolosi in sé, al di là dell'esito finale, perché è chiaro che iniziative di questo tipo non possono portare alla secessione o cose del genere, però se questi pazzi dovessero con una pistola, con una pistoletta o con un fucile o con quella sottospecie di carro andare in una piazza di Verona o di Venezia come l'altra volta e provare a sparare, non parlerei certo di golpe, però direi che sono persone pericolose, quindi credo che proprio vada verificata la situazione e vada tenuta ben distinta da quelli che ad esempio pretendono dal punto di vista sociale e politico che ci sia una maggiore autonomia nei territori. Sono due cose completamente diverse, ecco, uno è la questione sociale e politica e l'altra sono i pazzi che vanno messi in condizione di non essere pericolosi. No, ma è chiaro che questo si innesta in un disagio sociale che c'è e in un disagio nei confronti dello Stato centrale che non è solo l'indipendentismo o una maggiore federalismo, se vuole, Veneto, ma c'è con varie forme anche in varie parti d'Italia. Mi faccia coinvolgere il sindaco di Cittadella, Giuseppe Pan. Vorrei capire intanto, sindaco, perché dalla Lega soprattutto c'è stata oggi sia Umberto Bossi, sia Flavio Tosi, sia Salvini, una grande solidarietà, sia Zaia, una grande solidarietà nei confronti di queste persone. Non sono dei pazzi da isolare, Pan. Beh, buongiorno. Non sono dei pazzi, perché hanno messo naturalmente il dito nella piaga di quello che è il sistema Veneto in questo momento. Noi abbiamo solidarizzato con queste persone e penso un po' tutti noi della Lega, perché la pensiamo nella stessa maniera, non certamente nell'attacco armato, questo pseudo armato, questo o il tanco che comunque nel 97 ha fatto il suo ingresso in piazza San Marco. Attualmente questi sono simboli che sono stati messi lì per dimostrare un disagio nelle nostre popolazioni, della nostra gente, che è un disagio profondo, che comunque ha delle radici storiche ben conosciute qui in Veneto. Partiamo dal referendum del 1866, noi abbiamo sempre vissuto molto male questo attacco, diciamo, allo Stato italiano. A parte questo, e quindi alle radici storiche, cui i veneti hanno riscoperto proprio in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi, io e tanti conosciamo Franco Rocchetta, conosciamo sì. Alcune di queste persone. No? Franco Rocchetta è stato fondatore della Liga Veneta, persona che ha quasi 80 anni, persona che comunque sta diventando un ideologo. Ma qui, scusi, ma lei quando mi scusi, sindaco, però quando parlano in alcune intercettazioni di ma che salame, qui dobbiamo prendere la dinamite, qui dobbiamo farsi, cioè come le derubrica a minchiate che vengono dette così al telefono? Se lei viene da noi, e se lei, mi sembra che il suo cognome tra l'altro molto più sì, veneto che sì, altro, sì, quindi sì. Sa come la pensiamo, no? Quante volte senti gli imprenditori che sono sul Lazio, ci sono famiglie che hanno papà e mamma disoccupati, trattati, che non hanno lavoro, che comunque sono sobbarcati da tasse che vanno direttamente a Roma e che non ritornano indietro, quindi i nostri servizi che spariscono, lei sente in tutte le comunità venete di para, comunque anche i circoli culturali, a dire ma allora cosa facciamo? Allora perché non ci proviamo? Non dimostriamo la nostra autonomia, cioè, la nostra avessimo ascoltato anche le sue telefonate, anche lei qualche volta avrà sicuramente. Beh, io adesso non sono un dinamitardo, no, di natura io sono una persona democratica. Io penso che, ecco, quello che mi fa specie è che dopo il referendum online, dopo la commissione comunque regionale, proprio il giorno dopo abbia dato il via alla consultazione che sarà in consiglio regionale per far determinare i veneti con un referendum, sì. Si scopre tutto questo dopo due anni di ricerche. Quindi lei dice c'è una coincidenza che non le piace. Moldavi, bulgari che portano via di tutto da noi, che rubano per le case e per le aziende e nessuno li prende. Mi sembra un po' tutta una coincidenza strana. Questo è quello che si può rilevare anche da tutti i commenti che ci sono. Io dico che il disagio è forte, il disagio è molto grande e penso che questa riscoperta delle nostre radici comunque culturali, linguistiche, noi ci sentiamo una minoranza alla fine, no? La minoranza. Ma scusi, lei quando dice noi cosa vuole? I veneti. Noi veneti. Ci sentiamo, siamo sempre stati trattati abbastanza, no? Se lei guarda i film, La Serva, oppure siamo sempre stati ridicolizzati da tutte le parti, anche a livello culturale. È una riscoperta culturale delle proprie radici, della propria storia, è stata una storia importante nella Repubblica grande, che è stata quella di Venezia, e nello stesso tempo è stata riportata questa voglia di autonomia, questa voglia di dipendenza che scorre nel sangue di Veneti. Però io vorrei capire dal senatore Casson, così la ringraziamo e la liberiamo ai suoi impegni, senatore, di fronte a questo disagio che c'è, che è profondo, usciamo un attimo dalla questione dell'inchiesta, la mettiamo da parte, però questo disagio, confermato anche dal sindaco Pan, che c'è, il governo che risposte dà? Perché voglio dire, quando molti dicono, quando vediamo che tutte le tasse finiscono a Roma, si vaporizzano tutto il frutto del nostro lavoro, e dopo la rabbia sale. E allora che risposta dovrebbe dare un governo centrale? certamente questo disagio rappresenta una realtà ben nota, che si conosce e che è fondata anche su una parte di verità almeno, perché dal livello centrale, non solo il governo ma anche dal Parlamento, risposte in senso preciso non ne vengono date. E d'altra parte, quando si gira per i territori veneti, che confinano in particolare con le province del Friuli Venezia Giulia o del Trentino Alto Adige, che sono regioni a statuto speciale e dove si osserva una maggiore attenzione per l'economia con aiuti finanziari, incentivi, e per la parte speciale invece per i veneti no, è chiaro che il disagio è evidentissimo e le differenze si notano. Risposte in questo senso al momento non ce ne sono. Certamente andrebbe pensato, come si sta pensando di fare, a una modifica anche a livello costituzionale del tessuto normativo delle varie regioni, in modo tale che non esistano più le regioni a statuto speciale, perché anche a mio modo di vedere in questo momento storico non ha senso lasciare al Friuli Venezia Giulia, al Trentino Alto Adige degli statuti speciali, che hanno sicuramente una base storica, una ragione storica, ma però al giorno d'oggi non hanno nessun fondamento. E quindi di fronte a queste differenze i veneti, o almeno una parte di veneti, così lanciano urla, strepiti che hanno un minimo di fondamento. Bisogna che la politica dia delle risposte, però non scaricando sempre su Roma, ma pensando anche a quello che a livello regionale veneto non è stato fatto, perché piangersi addosso alla fine serve a poco, sì, o proprio a niente. Bisogna anche che a livello regionale ci sia da fare. Ricordiamo che c'è una regione governata praticamente da sempre in un certo modo, che certamente politicamente è un anno rispetto a quello che potrebbe essere invece la struttura, sì, economica e finanziaria. A proposito delle posizioni della Lega, lei senatore che ne pensa? Cioè della solidarietà manifestata a tutti i livelli della Lega a queste persone? Ma io credo che sbaglino, nel senso che certamente c'è uno zoccolo duro, ma direi piccolissimo peraltro, della Lega in questo senso, che prova anche delle nostalgie nei confronti dei Serenissimi del 1997, però credo che la Lega di fronte a manifestazioni più o meno gravi, poi si vedrà dall'inchiesta la gravità di questi fatti, più o meno gravi, dicevo, che fanno riferimento a pistole, a esplosivi, che vogliono costruire questa sottospecie, ripeto, di carro armato per azioni eclatanti, credo che l'azione dovrebbe essere più sociale e politica, non certo quella di pensare, sì, a interventi violenti che vanno assolutamente condannati. È un'azione politica seria, dovrebbe proprio mirare al tessuto economico, sociale, imprenditoriale, del lavoro del Veneto, del nostro Veneto, mi permetto di aggiungere, e lasciare stare questi pazzi che pensano a pistole e detonatori, sì, e isolarli proprio nell'interesse della Lega stessa, perché i leghisti seri ci sono, questi devono allontanare da loro stessi queste frange. Allora io, nel ringraziare il senatore Felice Casson del Partito Democratico, invece rimane con noi il sindaco di Cittadella Giuseppe Panda, da cui ripartirò proprio dopo la pubblicità, perché molti ci dicono: ma insomma state prendendo quattro mona e ne state facendo dei rappresentanti di milioni di persone, ci scrive Daniele da Verona. È davvero così? E anche la risposta che Casson dice la Lega deve dare, cioè isolare queste persone, e anche la questione che la Lega in quei territori è molto forte, quindi sta governando da anni. Ecco, a queste domande risponderà il sindaco di Cittadella, e anche con le vostre telefonate, mi raccomando, 800 24 0024, cari ascoltatori, riprendiamo tra pochissimo. 24 mattino. Alle 8 e 37 minuti, allora cari ascoltatori, 800 24 0024, che ne pensate di quello che è successo in Veneto? Vorrei sentire Vincenzo da Latina, ci ha chiamato. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che dice? Intanto complimenti a lei, è una persona straordinaria. Addirittura, non dica così. Sì, mi piace come fai i commenti sulle cose che succedono. Allora, detto questo, volevo dire al senatore della Lega, sì, che non solo prendere soldi. È come se un figlio in una famiglia che non riceve, secondo noi, una paghetta adeguata, prendesse un coltello e minacciasse i genitori, tanto dopo non succede niente, sì, ma è l'esempio quello che conta. Non si può rivendicare delle cose anche giuste mettendo in piedi delle situazioni come quella che si è creata in Veneto, anche, sì, perché loro a detta del senatore, sono stato al governo della regione, sono stati al governo del centrale per tanti anni e la situazione non è cambiata, quindi perché fare queste azioni che possono essere da esempio negativo per tutto il resto d'Italia? Allora Vincenzo, le risponde non è senatore, è il sindaco di Cittadella Giuseppe Pan della Lega, però sindaco ha sentito, cioè non è che se avete delle buone rivendicazioni da fare è come quello, no, il bambino che non gli danno la paghetta e prende il coltello contro i genitori. Sì, adesso io non ho sentito bene il telespettatore, io dico che naturalmente noi siamo stati sia il governo centrale di Roma e siamo stati in coalizione col centrodestra, siamo in regione, nel Veneto siamo attualmente col nostro governatore Zaia al governo. Beh, è chiaro che comunque vedendo le risposte noi ci abbiamo provato con, in tutte le maniere, quelle buone, no? Perché abbiamo provato col federalismo, abbiamo provato con la devolution. Le risposte sono sempre state sì, poi vedremo anche dagli alleati comunque, no? Perché quando si è comunque una minoranza all'interno della maggioranza certe idee sì. Dovevamo fare e non vanno avanti, dovevamo fare naturalmente la nostra proposta era delle macro regioni, dovevamo fare il governo federale, dovevamo fare questa Italia federale che sì. Per sopravvivere a questa Europa che ci sta massacrando senza confini, senza dazi, senza competitività, con un euro troppo alto per le nostre imprese e quindi con la chiusura delle imprese e di conseguenza con tutti i problemi che non ci sono, sono ripeto, ma in tutta però Italia. Appunto la questione è questa, cioè dice gli alleati non vi hanno, cioè quando eravate al governo dice Forza Italia eccetera non vi hanno, ho capito, ma allora uno che fa prende il carro armato perché non... No, non prende il carro armato e va avanti esempio con l'idea comunque di fare questo referendum che stiamo portando avanti nel Veneto, è partito dal basso, è partito dalla base di tanti movimenti che hanno idee differenti ma che comunque hanno un solo scopo, quello di arrivare all'autonomia. Ma non era una taroccata anche quella? No, non è una taroccata perché finalmente la commissione costituzionale della regione ha dato il via a questo referendum, adesso se il consiglio regionale li voterà andremo a farlo e se lo facciamo una volta per tutte, vediamo cosa dicono i veneti. E poi? Cosa volete, l'autonomia, la secessione oppure restiamo come sono, come siamo? Se restiamo come siamo ce la mettiamo via, è finita, è già successo da altre parti senza tanti drammi, cioè, ma lei è un secessionista, mi faccia capire, lei è un indipendentista, un secessionista? Io sono un indipendentista, indipendentista. Quindi anche se sono dell'idea che comunque attualmente azioni armate non fanno parte della mia cultura, però sono indipendentista, io penso che noi veneti dobbiamo esprimerci e possiamo far creare all'interno comunque dell'Europa dei popoli un popolo, è una nazione nuova, questa è la mia idea personale. No, ma è chiaro, cioè lei vorrebbe... Io posso esprimere democraticamente, ma infatti è qui a esprimerla infatti. Vorrei sentire Antonio da Vicenza, buongiorno, un cittadino veneto, sentiamo. Antonio, no, è caduta la linea. Roberto da Caserta, allora, insomma, non proprio veneto, ma dica la sua, Roberto, eccoci. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo, dica. Perfetto, allora... Niente, io chiamo da Caserta, in realtà è un'area, per capirci, tra Napoli e Caserta, la famigerata terra dei fuochi. E, quindi io volevo dire semplicemente questo, molto sinteticamente, capisco il disagio di queste persone che chiaramente al nord magari lamentano in questo momento una crisi, mancanza di lavoro e quant'altro. Però voglio dire, il disagio che noi dovremmo provare è ancora peggio di questo. Dico, se loro hanno questa voglia di secessione, noi ci sentiamo completamente abbandonati da questa classe politica. Quindi se il disagio di queste persone è dovuto a mancanza di lavoro, a una crisi che attanaglia tutti, imprese e cittadini, dovrebbero anche immaginare... Se siamo tutti italiani, cosa troviamo noi? Sì. Cosa guardi, Roberto, lei però manca un aspetto e non so se il sindaco di Cittadella è d'accordo. Uno dei motivi per cui fa arrabbiare anche il Veneto è di essere una terra molto produttiva e gran parte delle tasse finiscono nel calderone a Roma e poi così, boom, evaporano e spariscono il frutto del lavoro, quindi non è mancanza, non è solo mancanza di lavoro, eccetera. Però il cittadino di Caserta dice anche noi siamo abbandonati al sud. Siamo abbandonati e siamo diventati esattori, almeno con noi sindaci dello Stato, mandiamo tutto giù, non si sa dove vanno le risorse, magari fossero andate lì almeno avremmo saputo che sono state recuperate bene, quindi siamo in un paese che è pieno di sprechi, di corruzione, che ha dimostrato un fallimento totale. Cosa vuoi che noi mandiamo 21 miliardi giù di nostra tassazione a livello regionale e quindi non abbiamo neanche più i soldi per tappare le buche sulle strade. Questa è la situazione, è la stessa situazione che magari stanno vivendo da altre parti. Per questo che dobbiamo fare una riforma. Poi cosa c'è? Un nuovo centralismo che sta nascendo, quindi viene tutti i poteri regionali, tutti i poteri riaccentrati a Roma per e tutte le tassazioni. Sì, però mi scusi sindaco, quello che vorrei capire è questo. Lei dice non è certamente, non sono un dinamitardo, non sono certamente. Però perché allora manifestare solidarietà verso queste persone che hanno dimostrato quantomeno di essere un caso psichiatrico? È d'accordo almeno su questo? Solidarietà perché naturalmente non hanno fatto, non cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Secondo trasformato e quindi non mi sembra sta grande secondo armi, l'accusa secondo l'accusa volevano fare, c'era pare i contatti con la criminalità albanese per procurarsi le armi. Sì, io dico solo che comunque la solidarietà c'è perché non si processano certo questi tipi di idee che sono quelle nostre dell'autonomia e della secessione. Ma no, idee, cioè qui volevano secondo l'accusa fare delle azioni, non delle idee, cioè proprio. Sì, solidarietà perché questi mettiamo in carcere delle persone che magari non hanno combinato nulla, magari qualcuno potrà aver parlato al telefono, ho detto come tanti buttiamo giù qua, buttiamo giù di là, facciamo qualcosa e magari poi lasciamo liberi dai carceri i banditi o lazzaroni o assassini che sono molto peggio di queste, quindi sono due pesi e due misure, che da una parte c'è il pugno di ferro, dall'altra parte la mano. Prendiamo sempre la mano, allora, magari tante bande che dicevo prima che no ma è chiaro, lei dice si lasciano liberi i criminali. Allora abbiamo recuperato Antonio da Vicenza, sentiamo. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno Mila. Niente, le volevo dire che in questo caso non sono solidale con i secessionisti per quello magari che hanno fatto, ma il vero pagliaccio in questo caso mi sembra che è lo Stato. Guardi, io lavoro nel settore del movimento terra, hanno una ruspa vecchia non so di quanti anni, se questo lei me lo paragona a un tank, cioè sinceramente mi viene da ridere. Dopo, io sono un siciliano da 30 anni in Veneto, ma le dico sinceramente è riluttante quello che si vede qua, qua si delinque, la gente fa, cioè sono zingari, rom, extracomunitari, bivaccano, fanno di tutto e lo Stato è assente, c'è quattro persone che fanno una pagliacciata. Ho capito, ma stiamo a vedere se è una pagliacciata, Antonio. Comunque lei è un po' della linea come Giuseppe Pan. Comunque la questione è che se ci sono persone che delinquono, che sono straniere, vanno prese quelle, e se ci sono, se è un reato quello che hanno fatto queste persone ieri, vanno prese anche quell'altra. Cioè non è che mettere o l'uno o l'altro, no? Tutti quelli che delinquono andrebbero presi in uno stato normale. Giorgio da Pordenone, buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno. Volevo sottolineare due punti. Fate una grossa carenza, diciamo, di commento. Il problema nasce sul fatto che l'Italia è divisa in due o in tre parti, di cui il nord si sobbarca in gran parte la tassazione, il centro Italia un 50% e il meridione purtroppo paga solo il 20-30%. Ne stiamo parlando che questo, che il disagio c'è, ma questo, che il disagio questo sociale è l'unico problema. Poi per quanto riguarda questi poveri cristi, perché non li chiamo tali, lasciateli stare, cioè son poveri cristiani che hanno cercato di fare qualcosa, forse dentro anche uno che ha 80 anni, quindi ma ho capito, dipende che cosa qualcosa, cioè perché se hanno fatto qualcosa e minacciavano azioni eclatanti, cioè a lei sta bene così, caro Giorgio, se minacciavano di prendere delle armi? No, a me non sta bene, ma neanche a Giuseppe Pan sta bene. Se invece così millantavano al telefono, e si vedrà, c'è l'inchiesta su questo. Comunque io Giuseppe Pan la ringrazio per essere stato con noi, sindaco di Cittadella, e questa vicenda ovviamente continuerà sui giornali, vedremo gli sviluppi dell'inchiesta, e dopo il traffico andremo a parlare con un eurodeputato, anche lui veneto per la verità, Sergio Berlato, che è già con noi. Buongiorno Berlato. Buongiorno. Allora, lei e tutti i radioascoltatori. Le chiedo un attimo di pazienza, c'è il traffico e poi siamo subito da lei. Ecco. Eccoci, eccoci, l'ultima parte di 24 Mattino. Siamo con Sergio Berlato, eurodeputato, tra l'altro Veneto. L'abbiamo chiamato per un altro motivo, ma ha visto ieri in Veneto che è successo? Cioè. Ho visto che è successo. Sì, Cosa ne pensa di questi? Da perizia psichiatrica o da procura della Repubblica? Secondo me la cosa deve essere considerata per quello che è. Ci sono alcuni soggetti che nella loro rivendicazione di una indipendenza o di una forte autonomia probabilmente esagerano, e forse l'azione della magistratura non fa altro che forse fare un favore a qualche forza politica in questo caso, perché Lega, credo che certo. Sia evidente la cosa, no? No, chiaro. Allora, Sergio Berlato, l'abbiamo chiamata per questo. Sapete che c'era stata la svolta animalista di Berlusconi, no? Che vuole adesso dare, nasce anche il Doodoo's Act, cioè prendi un cagnolino al canile e ti danno 200 euro di sconto come Tares. Questa è la proposta di Brunetta. E allora molti si sono adombrati perché dicono: ma come, la svolta animalista e Berlusconi candida e forse se ricandiderà Sergio Berlato, che è un cacciatore, fieramente un cacciatore, e credo che abbia anche una carica lei in Veneto? Sì, io sono segretario generale dell'Associazione Cacciatori Veneti Confavi. Ah, mannaggia, e come si concilia questa cosa con la svolta animalista di Berlusconi? Guardi, intanto l'invito di Berlusconi, che io condivido, non è una svolta animalista. Lui ha detto solamente: invito tutti coloro che se lo possono permettere, perché va ricordato che in Italia ci sono delle famiglie che non si possono permettere, per la crisi economica, di adottare neanche un bambino, oppure di garantire un'esistenza dignitosa ai figli che il buon Dio ha dato loro, no? E allora, quelle famiglie che se lo possono permettere, l'invito è quello di andare ad adottare uno dei tanti cani che sono abbandonati nei canili. Questo è un invito che noi condividiamo, lo condivido io da cacciatore, non solo da deputato al Parlamento europeo. E questo quindi è un invito rivolto agli animali d'affezione, cioè a tutelare gli animali d'affezione, che non ha nulla di incompatibile con quanto noi siamo, con il fatto che io sia un cacciatore, oltre che essere un deputato del Parlamento europeo, ovviamente. Quindi questa è una cosa che lei condividere e non è assolutamente incompatibile con il suo ruolo. Ma sono apparsi anche i manifesti ad Arcore: ma come, Berlusconi, vergogna, candidi Berlato, che l'hanno presa di mira proprio gli animalisti. Guardi, a fare quell'intervento vandalico è un piccolo gruppo di integralisti animalisti che sono già noti alle forze dell'ordine per le loro azioni di vandalismo. Sono alcune decine di soggetti che manifestano in questo modo le loro posizioni. Se hanno delle cose da dire, perché non vengono a esporli in maniera democratica? Non capisco perché. Beh, ma loro dicono che lei uccide alcuni animali, e il cacciatore fa questo, no? Uccide alcuni animali. Cosa hanno da discutere con... Io rispetto le scelte di vita di ognuno. L'importante è che il rispetto sia reciproco. Questi sono quelli, come ricorderà, gli stessi, o fanno parte della stessa organizzazione, di coloro che hanno lapidato Caterina Simonsen, che era quella ragazza, come ricorderà, no? Che è stata lapidata sul web solo per aver ringraziato i medici di averlo salvato la vita, certo. Utilizzando dei farmaci prodotti anche grazie alla sperimentazione animale. Sì, no? Sì. Bene, questa ragazza sul web è stata proprio lapidata, l'hanno detto: per colpa tua, per far vivere te, sono stati ammazzati tanti topolini, tanti animaletti. E quindi capisce lei dove arriva questo tipo di integralismo animalista. Però è il loro modo di esprimere le loro convinzioni, oltre a una serie di atti vandalici. Ma quindi, mi scusi, lei è convinto di essere ricandidato, o questa cosa, insomma, il fatto di essere un cacciatore con... Il presidente Berlusconi è molto intelligente e non è che stia lì a dar retta a un gruppuscolo di animali ambientalisti. Io sono deputato del Parlamento europeo dal 1999, sono sempre stato uno dei più votati con le preferenze, non sono mai stato nominato, ma sempre votato con le preferenze del Parlamento europeo. Io ho una presenza media al Parlamento europeo che supera il 90%, sia come quindi presenza che nessuno come discute, nessuno discute la sua efficienza. Qui si parla proprio di vista questa svolta prima di essere un cacciatore, cosa di cui mi vanto, perché la caccia mi ha insegnato a conoscere e quindi a rispettare. Io sono un deputato del Parlamento europeo, rappresento il mio paese in Europa, e se effettivamente si arrivasse a escludere un deputato del Parlamento europeo con il lavoro che ha fatto in quanto e sta continuando a fare, certo. Perché solo perché è cacciatore, insomma, ci sarebbe poi da riflettere seriamente per dire no, ma su questo mi dica no, Berlato, in conclusione, qual è la sua preda, la preda di cui è stato più orgoglioso da cacciatore? Guardi, la mia preda migliore è stata un alba meravigliosa che ricordo ancora quando ero bambino, accompagnando mio padre, andando a caccia, ho visto delle cose fantastiche e io ho provato delle emozioni bellissime accompagnando mio padre a caccia. Questa è la, una delle prede che, di cui conservo un miglior ricordo. Vabbè, ma una preda invece è una preda animale, ecco, ci sarà una cosa. E io ho poco tempo, però quando riesco a ritagliarmene un po', vado a caccia. Normalmente vado a caccia di anatre, la mia caccia preferita è quella di anatre. Però guardi, al di là di tutto, guardi, questi integralisti, per tornando a noi, quelli che non ce l'hanno con me solo perché cacciatore, perché ce l'hanno con i cacciatori, con i pescatori, con gli allevatori, con gli agricoltori, con chiunque a diverso titolo abbia a che fare con gli animali. Eh beh, è chiaro, abbia a che fare in un certo modo, cioè che li ammazzi, e questo. Guardi, allora io le faccio un esempio pratico, no? Chi come noi conosce il patrimonio faunistico, sì, lo equipara a un albero da frutto. L'albero da frutto, per continuare a dare frutti rigogliosi, deve essere tenuto libero da erbe infestanti, deve essere irrigato, ma deve essere potato. La caccia non è altro che l'azione di potatura che viene fatta da mani esperte, grazie alla quale l'albero dà frutti rigogliosi per le presenti, ma anche per le future generazioni. Va bene, allora Berlato, io la ringrazio, insomma le polemiche immagino continueranno su questo, lei dice sono un gruppuscolo di fanatici animalisti, intanto la ringrazio per essere stato con noi, Sergio Berlato, con lei concludiamo con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli, domani Sveglia permettendo, sarò qua ancora alle 6.30, grazie a Peter Bescapè, ci siamo anche domattina.